Il miracolo di pescare tanti pesci di giorno al punto che la rete si rompeva ha rivelato ai discepoli la loro debolezza e incapacità, e contemporaneamente Gesù è apparso ai loro occhi come il Signore. Dal racconto si comprende che i discepoli avevano un'attività improprio, e questo mette in evidenza maggiormente la rinuncia espressa da Luca. Punto, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Il Signore è certamente glorificato da tutti coloro che lo seguono. Ma bisogna riconoscere, quanto maggiore è la rinuncia, tanto maggiore è l'onore dato a Dio. Ecco perché è meraviglioso vedere soprattutto dei ragazzi consacrare la loro giovinezza, i loro talenti e denaro per l'opera di Dio. Sei tu pronto a rispondere positivamente se Dio ti chiama? 3. Lu 7. 1.10. Il servo del centurione di Capernaum. Questo miracolo si distingue da molti altri perché non ha avuto nulla di spettacolare, ma prima di tutto notiamo l'amore che un centurione aveva per un suo servo. Se consideriamo che a quei tempi i servi avevano meno diritti di un animale, il centurione aveva certamente un forte senso di umanità e forse religiosità. Infatti egli amava i giudei e aveva costruito la sinagoga per essi. Tutto questo, per i giudei, lo rendeva degno di essere aiutato, ma il centurione non si sentiva neppure degno che Gesù entrasse in casa sua, per cui lo prega di guarire il servo con un suo comando. Questa grande fede del centurione meraviglia Gesù che lo addita come esempio. La fede del centurione era stata prodotta dal constatare come si svolge la vita. Egli, avendo notato che coloro che sono in autorità quando ordinano vengono ubbiditi, ritenendo Gesù un'autorità, ha la fede nel divino è preceduta quindi da una fede nelle cose terrene. Infatti Gesù disse: «Se vi ho parlato di cose terrene e non credete, come crederete se vi parlo di cose celesti?» Gv 3:12. Impariamo quindi a dare valore alle cose di questa vita, osserviamo come Dio si cura delle cose di questo mondo e la fede in Dio aumenterà. 4 Lu 9:10-17. La moltiplicazione dei pani. Questo racconto è l'unico citato da tutti e quattro gli evangelisti. Molto probabilmente non sapremo mai il perché di questa particolarità, ma una cosa è certa. Dopo questo miracolo la gente voleva incoronare Gesù come il loro re. Gv 6:15. Forse per nessun altro miracolo la gente ha avuto in seguito questo sentimento nei confronti di Gesù, e questo ancora una volta dimostra che presa psicologica abbia sulle folle colui che procura. I discepoli volevano congedare la folla, ma Gesù disse, per metterli alla prova, di provvedere a loro. Essi si resero conto di non aver cibo a sufficienza, e Gesù, con il poco che avevano, sfamò più di. Questo miracolo dimostra come Gesù possa far fruttare il poco che abbiamo a condizione che lo consacriamo a Lui. I 5 pani e i 2 pesci dovevano essere dati, anche se erano nulla in confronto alla necessità reale, ma quello che Dio vuole non è la quantità, ma la nostra disponibilità. Non rammaricarti se hai poco, gioisci per quello che hai, e Dio, che è grande, farà cose grandi. 5 Lu 18:35-43. Il cieco di Gerico. Gesù guarì altri ciechi, ma in questo avvenimento vi sono delle particolarità importanti. Mentre un cieco stava mendicando, sentì un rumore insolito di folle e, informatosi che cosa stava succedendo, gli dissero. Allora egli gridò: «Gesù figlio di Davide, abbi pietà di me!» Il cieco invocò non il Gesù nato a Nazaret, ma colui che discendeva da Davide, cioè lo invocò come il Messia. La gente lo sgridava, ma egli gridava più forte. Quando si è nel bisogno, si invoca il Signore anche se gli altri ti prendono in giro o non vogliono. Gesù si fermò. E, bello vedere Gesù così impegnato, così circondato dalla folla, prendersi il tempo di fermarsi per un cieco. Infatti, se sapessimo che cosa andremmo incontro ad essere dei. Ma Gesù sapeva che sarebbe stato tradito, che sarebbe stato schernito, oltraggiato, che gli avrebbero sputato sul viso, che sarebbe stato flagellato e crocifisso. Nonostante tutto questo, egli accettò questo compito, perché amava l'uomo, cioè io e te, più di se stesso. Questo è amore. In 1 Gv 3:16 sta scritto: «Da questo abbiamo conosciuto l'amore, egli ha dato la sua vita per noi». Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. La parola di Dio ci invita a imitare Gesù nel dare la nostra vita per i fratelli. Questo significa che se amare il prossimo vuol dire anche soffrire. Noi siamo chiamati a non tirarci indietro, ma, come Gesù, portare a termine il compito per il quale Dio ci lascia su questa terra. B. Lu 19, 28-44, l'ingresso trionfante. Gesù, come disse il profeta Zaccaria 9:9, entrò a Gerusalemme montato su di un puledro. La folla lo acclamava come re, mentre i farisei erano dispiaciuti. Gesù pianse su Gerusalemme, perché la popolazione non sapeva quello che stava accadendo, cioè che stava entrando il Figlio di Dio. Quante volte non ci rendiamo conto di quello che il Signore sta facendo nella nostra vita? Piangiamo noi per coloro che sono perduti? C. Lu 21, 5:36, il sermone profetico. Prima della sua morte, Gesù ha voluto lasciare ai suoi discepoli un messaggio profetico. Quando si parla di profezia si entra in un campo molto difficile, ma alcune cose è bene ricordare per 1. Gesù stava parlando a dei giudei, quindi quello che dice è rivolto principalmente a loro. Infatti, alcuni diranno di essere il Messia, e questo vale solo per il popolo di Israele, Vito 8. 2. Le cose che Gesù dice sarebbero successe gli ultimi 7 anni prima del suo ritorno. E, sufficiente accostare i seguenti versetti, Luca 21:20 con Matteo 00:15 e Daniele 9:27. 3. Il ritorno di cui Gesù parla non è per la Chiesa, ma per il popolo di Israele. Infatti tutti vedranno il Figlio dell'uomo, mentre quando Gesù verrà per rapire la Chiesa, questa sarà rapita in un batter d'occhio. 1 Te 4. 4. Le profezie che Gesù disse devono essere uno stimolo per essere zelanti e non lasciarci prendere dalle preoccupazioni di questa vita. Versetto 34. De Lu 22, 1-6, il complotto di Giuda. La gravità del gesto di Giuda sta soprattutto nell'aver preparato ogni cosa per tradire Gesù. Tutti i grandi uomini di Dio hanno peccato perché sono stati o disavveduti o hanno avuto un atto di debolezza. Ma, quando il peccato è il risultato di una meticolosa preparazione, allora si portano le conseguenze della propria responsabilità. E Lu 22, 7-23, la cena pasquale. Gesù aveva grandemente desiderato di mangiare questa Pasqua con i discepoli, versetto qui. Noi. 1. Perché con questa Pasqua era giunto il momento di compiere l'opera per cui egli era venuto su 2. Perché egli avrebbe trasformato la Pasqua ebraica, cioè il ricordo del passaggio nel Mar Rosso. Infatti l'Evangelista Luca ricorda che Gesù distribuì 2 calici. Il primo era quello della Pasqua ebraica, il secondo quello della rammemorazione della sua morte, versetto 17-20. Dando il secondo calice, Gesù disse, «Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, che è sparso per voi». Gesù quindi stabilì un nuovo patto che ancora oggi noi ricordiamo quando prendiamo la cena del Signore. F. Lu 22:31-34. Pietro avvisato. Tutti e 4 gli evangelisti ricordano questo avvertimento. In realtà, gli altri discepoli non si comportarono molto meglio di Pietro perché, quando Gesù fu arrestato, tutti fuggirono. MT 26:56. Mentre Pietro, assieme a Giovanni, in qualche modo seguì Gesù. 22:54. Forse una delle ragioni perché gli evangelisti riportano questo avvertimento è dato dal fatto che Pietro fu l'unico che affermò, con orgoglio, che non sarebbe stato scandalizzato causa Gesù, MT 26.33, ma, giustamente come dice il proverbio, prima della rovina viene l'orgoglio e prima della caduta lo spirito altero, PR 16:18. Se crediamo a questa parte della scrittura, abbiamo molto da riflettere quando commettiamo gravi errori. G. Lu 22:39-46, Gesù nel Getsemani. La forza di Gesù era la preghiera, vedi 21:37, una sintesi della sua vita. Al Getsemani fu la volontà di Gesù a morire, mentre sulla croce fu il suo corpo. Notiamo ancora che Gesù, essendo in agonia, pregava ancora più intensamente. Cosa facciamo noi quando siamo tristi, abbattuti, sconsolati? rammaricati, offesi, arrabbiati. E bene notare pure che Gesù non sudò del sangue come molti pensano, ma il suo sudore divenne simile a grumi di sangue, cioè le gocce di sudore erano grosse della dimensione delle gocce di sangue. Questo significava quanto Gesù soffriva. Luca 22:47-53. L'arresto di Gesù. Questo episodio dimostra quanto poco avessero capito i discepoli del messaggio di Gesù. Essi lì. Ancora una volta un episodio negativo nella vita dei discepoli rafforza la nostra fede perché ciò dimostra che essi non erano persone esaltate o fanatiche del messaggio del loro maestro, ma persone che fino alla fine capirono molto poco di quello che Gesù aveva loro detto e quindi se in seguito diventarono degli uomini di Dio, ciò era dovuto allo Spirito Santo che era in loro. L'incredulità, l'ignoranza, la debolezza e la cocciutaggine dei discepoli mi parla di quello che Dio può fare nella mia e nella tua vita. Luca 23:33-48, la crocifissione. Quando parliamo della crocifissione spesso pensiamo a quanto Gesù ebbe sofferto fisicamente, ma forse la sofferenza più grande di Gesù è stata la tentazione morale e spirituale. La tentazione morale. Egli venne schernito dal popolo, versetto 35, dai soldati, versetto 36, e da uno dei malfattori appeso alla croce, versetto 39. Ma l'amore di Gesù non ha limiti. Non solo sopportò pazientemente tutto, ma chiese a Dio di perdonare coloro che lo crocifiggevano perché non sapevano quello che facevano. 34. È più importante sottolineare la ragione per cui Gesù chiede al Padre di perdonarli perché non sapevano quello che facevano. Dio conosce il nostro cuore e i nostri limiti, perciò Egli è disposto a perdonare in caso di ignoranza. Ma quando noi volontariamente disubbidiamo a Dio, allora portiamo la conseguenza dei nostri errori. Infatti, le persone che saranno condannate sono coloro che avranno scelto di non amare Dio. Giovanni 3:19. Voi tu o hai deciso di voler amare Dio con tutto il cuore scegliendo di fare ciò che Egli ritiene bene? Hai deciso risolutamente di rifiutare ciò che Dio dichiara sbagliato? 2 Timoteo 2:19. La tentazione spirituale. Se confrontiamo quello che dissero i magistrati col popolo e quello che disse il diavolo all'inizio del suo ministero, Luca 4:3-9, comprendiamo che la tentazione principale di Gesù era quella di agire come figlio di Dio. Gesù aveva deliberatamente scelto di essere un uomo e come tale non poteva usufruire della sua autorità come figlio di Dio. Quindi la provocazione era tesa a far sì che egli fallisse nel suo mandato. Se Gesù falliva, tutti noi eravamo perduti senza speranza. Il diavolo voleva che Gesù commettesse lo stesso peccato che egli aveva commesso, cioè l'orgoglio. Ma Gesù non ha ceduto anche quando era pressato da una sofferenza fisica e morale. Rimettendosi nelle mani di Dio, Gesù vinse il suo grande nemico. Poiché ebbe fede e disprezzò il vituperio, egli ora siede alla destra del trono di Dio. Ebi 12:1-3. Luca 23. I particolari della crocifissione. Non sempre si hanno presente in ordine cronologico gli avvenimenti della crocifissione. Li vediamo ora di seguito secondo ciò che è descritto nei quattro Evangeli nei seguenti capitoli. Matteo 27, Marco 15. Luca 23, Giovanni 19. 1. Giungono al Golgota. 2. Gesù rifiuta di bere la bevanda stupefacente. 3. Gesù è crocifisso fra due ladri. 4. La prima frase dalla croce. Padre perdona. 5. I soldati si spartiscono le vesti. 6. I giudei si beffano di Gesù. 7. I due malfattori schermiscono Gesù, poi uno si pente. 8. La seconda frase dalla croce. Oggi tu sarai meco. 9. La terza frase dalla croce. Donna, ecco il tuo figlio. 10. Le tenebre. 11. La quarta frase dalla croce. Dio mio, Dio mio. 12. La quinta frase. Ho sete. 13. La sesta frase. È compiuto. 14. La settima frase. Padre nelle tue mani. 15. Gesù rende lo Spirito. Tutti e quattro gli Evangeli. M. Lu 23, 49-56, il seppellimento. Gesù ormai era morto, per cui la gente che era curiosa di vedere come sarebbe andato a finire, se ne tornò a casa, versetto 48, mentre i suoi conoscenti e le donne che lo avevano seguito stavano a distanza. Versetto 49. Solo un uomo ebbe il coraggio di presentarsi a Pilato e chiedere il corpo di Gesù, ponendolo in un sepolcro nuovo. Questo particolare del sepolcro non ci deve sfuggire perché il profeta Isaia predisse 700 anni prima, Is 53:9, che il Messia, oltre ad essere rigettato dagli uomini e trafitto, sarebbe stato col ricco, espressione questa capita alla luce degli avvenimenti descritti negli Evangeli. N. Il giorno della sepoltura. Secondo l'insegnamento religioso cattolico romano, Gesù morì venerdì, ma questa affermazione contraddice clamorosamente l'affermazione di Gesù, il quale sarebbe stato nel sepolcro 3 giorni e 3. Ma dal momento che Gesù risuscitò all'alba del primo giorno della settimana, che per noi corrisponde alla domenica, se contiamo a ritroso 3 giorni, Gesù morì il mercoledì sera. Infatti, il cristianesimo è una religione storica, che basa i suoi insegnamenti su determinati eventi avvenuti in Palestina 1900 anni fa. Di questi eventi ci sono la nascita ed il ministero di Gesù Cristo, culminato la resurrezione e la pietra angolare, perché se Cristo non è risorto, egli non era ciò che affermava di essere, e la sua non fu una morte espiatrice. Allora i cristiani sono stati ingannati per secoli, i predicatori hanno proclamato degli errori, i fedeli sono stati ingannati da una falsa speranza di salvezza, 1 Co 15:1-20. Allora i 24, 1:12, la risurrezione di Gesù. Spesso quando confrontiamo la narrazione dei quattro Evangeli facciamo fatica a capire come si sono svolti effettivamente i fatti alla tomba di Gesù in modo cronologico. Ecco come, combinando le quattro narrazioni, molto probabilmente successero i fatti. Allo Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e Salome, si avviano al sepolcro, seguite da alcune donne che portano le spezie. Im 16:1. Esse trovano la pietra rotolata e Maria Maddalena torna indietro per dirlo ai discepoli. Lu 00:05-10. Gv 21:2. B. Maria, madre di Giacomo e Salome, si avvicinano alla tomba e vedono l'angelo. Mt 28:1-8. Tornando indietro per dare la notizia ai discepoli, incontrano le altre donne con le spezie. C. Intanto, Pietro e Giovanni, avvertiti da Maria Maddalena, arrivano al sepolcro, guardano nella tomba e tornano via. Gv 21:10. D. Maria Maddalena ritorna al sepolcro piangendo, vede i due angeli e di seguito Gesù. Poi, obbedendo a lui, va a dirlo ai suoi discepoli, Gv 20:11-18. E, intanto Maria, madre di Giacomo e Salome, hanno incontrato le donne con le spezie e tornano indietro con loro e vedono i due angeli, Lu 24:4-5. F. Questi parlano alle donne, ed esse, andando in cerca dei discepoli, incontrano Gesù, Mt 28:8-10. 3. Pietro, Andrea, Giacomo di Zebedeo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Tommaso, Matteo, Giacomo d'Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo, Giuda Iscariota. 4. Di essere dei testimoni. 5. Gradi lezione. 1. Un messaggio rivolto a tutti. 2. Perché è eterna. 3. Fare agli altri ciò che vorremmo fosse fatto a noi. 4. E. Un'esperienza spirituale mediante la quale si diventa figli di Dio. 6. Gradi lezione. 1. A. B. Dimostrare il suo amore per il prossimo. C. Dimostrare che il suo messaggio proveniva da Dio. 2. Avrebbe fallito lo scopo della sua missione. 4. Perché Gesù avrebbero soddisfatto se. 5. Bisogna valutare come Dio agisce nella vita per alimentare una vera fede. 7. Gradi lezione. 1. Perché amava il prossimo più di se stesso. 2. Che esso va amato a costo della propria vita. 3. Zaccaria. 4. Non aveva timore della sofferenza. 5. I giudei. 6 perché era giunto il momento di compiere l'opera di Dio e perché avrebbe celebrato quello che diventerà la cena del Signore. 7 perché si pentì, confessò il suo peccato e credette nel perdono di Gesù. 8 si credeva più forte o spirituale degli altri discepoli. 9 perché in quel momento era la sua volontà che doveva morire. 10 se era possibile di evitare la croce. 11 fuggirono tutti. Il comportamento era più che normale perché anch'io avrei fatto lo 12, perché non erano coscienti di quello che stavano facendo. 13 Giuseppe. 14 Isaia. Che Gesù sarebbe stato col ricco. 8 gradi lezione. 1 perché è il miracolo per eccellenza, mediante il quale egli è stato dichiarato Dio. Se Gesù non fosse risorto, i cristiani sarebbero, nei loro peccati, sarebbero stati ingannati. I predicatori sarebbero dei bugiardi. 2. 4. Perché la fede cristiana si basa su fatti storici. 9 gradi lezione. 1. In cielo alla destra di Dio. 2. Essendo con i credenti in ogni circostanza. 3. Ebrei 7:25. 1. Giovanni 2. 2. Zaccaria, Malachia. 3. I veri cristiani saranno tolti dalla terra mediante la potenza di Dio a incontrare Gesù nell'aria. 4. Nessuno lo sa. 5. 6. 7. SCHEMADLLAVITADICRISTO. Perché possiamo ricordare la vita e l'insegnamento di Gesù Cristo, abbiamo pensato di dividerlo. Gesù è nato circa 2000 anni fa, però egli esisteva anche prima, anzi egli è sempre esistito perché egli è Dio. EB 13. 8B. Non ha avuto principio. EB 7. 3C. Era prima di Abramo, quindi dell'uomo. G. V. 8:58D. Era prima di Satana, quindi degli angeli. Lu 10:18E. Era prima della creazione del mondo, quindi di tutto. GV 1. 1:17. 5. Domande sulla prima lezione. 4. Scrivi un versetto dove afferma che Gesù esisteva prima della creazione del mondo. La nascita, la vita, la morte e la resurrezione di Gesù non è stata casuale, ma ogni cosa era stata profetizzata. Gesù rimane quindi l'unico fondatore di una religione, profetizzato, approvato, confermato da Dio. Se non fosse stato così, chiunque poteva prendere il posto di Gesù, ma Dio ha voluto mediante le profezie rendere sicura la fede del cristiano. A. Gen. 3:15 Gesù avrebbe vinto Satana, la prima profezia. B. Gen. 22:18 Gesù sarebbe nato dalla discendenza di Abramo. C. Gen. 49:10 Gesù sarebbe nato dalla tribù di Giuda. D. Deut. 18:15-19 Gesù sarebbe stato un profeta. E. Salmo 16:10 Gesù sarebbe risorto. F. Salmo 2:7-12 Gesù sarebbe stato figlio di Dio. Troversetto 34. G. Salmo 22:1 Gesù sarebbe stato abbandonato da Dio. H. Salmo 22:16 Gesù avrebbe avuto forato le mani e i piedi. I. Salmo 22:18 I nemici di Gesù avrebbero spartito i suoi abiti. L. Salmo 68:18 Gesù sarebbe salito in cielo. Isaia 7:14 Gesù sarebbe nato da una vergine. N. Isaia 53 Tutto. Gesù sarebbe morto per i peccati di tutti. O. Michea 5:2 Gesù sarebbe nato a Betlemme. P. Zac. 9:9 Gesù sarebbe entrato a Gerusalemme sopra un puledro. Q. Zac. 11:12 Gesù sarebbe stato tradito per 30 sicli d'argento. R. Zac. 12:10 Gesù sarebbe stato trafitto. Domande sulla seconda lezione. 1. Che cosa è una profezia? 2. Quali sono alcune tra le più importanti profezie riguardanti Gesù Cristo? 3. Qual è lo scopo principale delle profezie? 4. Perché si afferma che Gesù Cristo è l'unico fondatore di una religione approvato da Dio? Gesù fu conosciuto pubblicamente con il suo battesimo a circa 30 anni. Dalla sua nascita fino al suo battesimo egli visse come un giudeo fra i giudei, ma gli scrittori ispirati dallo Spirito Santo raccolsero dei particolari della sua nascita e della sua infanzia che ritennero utili tramandarceli per dimostrare che egli era il Messia. A. Luca 1, 5:25 l'arcangelo Gabriele appare a Zaccaria. B. Luca 1, 26-38 l'arcangelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. C. Luca 1, 39, 1 e 18:25 un angelo appare a Giuseppe. F. Luca 2, 1-7 la nascita di Gesù. G. Luca 2, 8-20 la visita dei pastori. H. Luca 2, 21-24 la presentazione di Gesù. I. Luca 2, 25-38 le parole di Simeone ed Anna. L. Matt 2, 1-12 la visita dei magi. M. Matt 2, 13-18 la fuga in Egitto. N. Luca 2, 39-40 il ritorno a Nazareth. La gioventù di Gesù. O. Luca 2, 41-50, la visita al Tempio. P. Luca 2, 51-52, gli anni di silenzio. 1. Descrivere sinteticamente i momenti salienti della vita di Gesù dalla nascita all'esordio del 2. Chi è Zaccaria e per quale motivo viene ricordato nelle scritture? 3. Che cosa successe durante la visita al Tempio, raccontata da Luca nel Vangelo al capitolo 2? 4. Che cosa ci dice la Bibbia della gioventù di Gesù? 4. LASTRATEGIAMISSIONARIADICRISTO. Lo scopo di Gesù non era solo quello di morire in croce, ma anche di testimoniare della verità a tutto il mondo. Egli non ha svolto questo compito subito e da solo, ma si è scelto delle persone, perché dopo la sua morte potessero portare avanti la sua opera. A. Luca 3:21 il battesimo di Gesù, come inizio del suo ministero. B. Luca 4:1-13 la tentazione di Gesù. C. Gio versetto 1:35-51 i primi discepoli seguono spontaneamente Gesù. D. Luca 5:1-11 Gesù chiama alcuni di questi discepoli a seguirlo. E. Luca 5:27 Gesù chiama Levi. F. Luca 6:12-16 Gesù sceglie fra i discepoli 12 apostoli. G. Luca 9:1-6 Gesù manda gli apostoli ad evangelizzare i giudei. H. Luca 10:1-12 Gesù manda 70 persone come ambasciatori. Atti 1:8 Gesù ordina agli apostoli di predicare l'Evangelo a tutto il mondo. 4. LASTRATEGIAMISSIONARIADICRISTO. Domande sulla quarta lezione. 4. Qual è stato il comandamento che Gesù ha impartito agli apostoli? Così come è scritto nell'Evangelo di Luca al capitolo 6, possiamo notare alcune cose. 1:1-22:23 Gesù ricorda ai suoi discepoli che essere dei cristiani significa a volte essere odiati e schermiti. Egli ci chiede di rallegrarci e di saltare di gioia perché il premio è grande in cielo. 2:27-32:35 Gesù ordina ai suoi discepoli ad amare i nemici. Per amarli non significa sentire dell'affetto verso di loro, ma, come disse Gesù, fare del bene, accoglierli, prestare. 3:31 Basterebbe che gli uomini osservassero solo questa regola e il mondo sarebbe molto migliore. Gesù ordina ai suoi discepoli di comportarci con gli altri come noi verremmo che gli altri si comportassero verso di noi. 4. Luca 9:23-27 La cosa più importante in questo mondo è avere l'anima salvata. Perché? Perché le cose terrene le dovremo lasciare mentre l'anima è eterna. Come posso sapere se ha veramente creduto in Cristo, se io non mi vergogno di Lui e lo confesso? 5. Gio versetto 3:1-8 La nascita più importante per una persona è quella spirituale. Perché? Perché la nascita terrena porta alla morte, quella spirituale porta in cielo. Come posso sapere se sono nato di nuovo? Se lo Spirito di Dio è il padrone della mia vita, cioè se la mia volontà è sottomessa a quella di Dio, allora sono figlio di Dio. Domande sulla quinta lezione. 1. Che cosa è il sermone sul monte? 3. Quale comandamento basterebbe osservare perché il mondo migliori? Anche la persona più incolta sa che Gesù ha compiuto dei miracoli. Gli evangelisti infatti ne narrano almeno 35. È vero che essi non sono dimostrabili, ma non si può nemmeno dimostrare il contrario, quindi, per il credente che crede alle parole di Gesù perché lo afferma la Bibbia, non può rifiutarsi di credere a quello che egli ha fatto. Gesù non era un taumaturgo, ma i suoi miracoli avevano almeno un triplice scopo. Dal momento che Gesù fece tante cose al punto che, se fossero scritte ad una non basterebbe il mondo a contenere i libri che si potrebbero scrivere, Giovanni 21:25, la tentazione. Prima di esaminare alcuni miracoli è forse utile considerare che Gesù appena iniziò il suo ministero. Si rifiutò di compiere due miracoli. Trasformare i sassi in pane sarebbe stato per Gesù un miracolo egoistico per soddisfare un suo desiderio, anche se legittimo. Buttarsi giù dal tempio sarebbe stato un atto che avrebbe chiesto un intervento particolare di Dio non necessario. Questo comportamento di Gesù dimostra maggiormente come egli considerasse il miracolo un atto che non doveva soddisfare se stesso neppure la curiosità di chi lo richiede, ma doveva essere fatto per dare gloria a Dio. E bene ricordare che Gesù non fece mai nessun miracolo come Dio, ma egli operò sempre mediante la fede per la potenza dello Spirito Santo. 2. Luca 5, 1. La pesca miracolosa. Quando si legge questo brano, la prima cosa che colpisce è la prontezza con cui i discepoli seguono Gesù. Ma è bene tenere presente che sia Pietro che Giovanni e Giacomo conoscevano da tempo Gesù e il suo insegnamento. Il miracolo di pescare tanti pesci di giorno al punto che la rete si rompeva ha rivelato ai discepoli la loro debolezza e incapacità, e contemporaneamente Gesù è apparso ai loro occhi come il Signore. Dal racconto si comprende che i discepoli avevano un'attività improprio, e questo fa comprendere maggiormente la rinuncia espressa da Luca, punto lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Il Signore è certamente glorificato da tutti coloro che lo seguono, ma bisogna riconoscere quanto maggiore è la rinuncia, tanto maggiore è l'onore dato a Dio. Ecco perché è meraviglioso vedere dei ragazzi e non consacrare la loro giovinezza, i loro talenti e vori scerenti e denaro per l'opera di Dio. Sei tu pronto a rispondere positivamente se Dio ti chiama? 3. Luca 7, 1-10. Il servo del centurione di Capernaum. Questo miracolo si distingue da molti altri, perché non ha avuto nulla di spettacolare, ma prima di tutto notiamo l'amore che un centurione aveva per un suo servo. Se consideriamo che, a quei tempi, i servi avevano meno diritti di un animale, il centurione aveva certamente un forte senso di umanità e forse religiosità. Infatti egli amava i giudei e aveva costruito la sinagoga per essi. Tutto questo per i giudei lo rendeva degno di essere aiutato, ma il centurione non si sentiva degno. Che Gesù entrasse in casa sua e lo prega di guarire il servo con un suo comando. Questa grande fede del centurione meraviglia Gesù, che lo addita come esempio. La fede del centurione era stata prodotta dal constatare come si svolge la vita. Egli, avendo notato che coloro che sono in autorità quando ordinano vengono ubbiditi, ritenendo Gesù un'autorità. A. La fede nel divino è preceduta quindi da una fede nelle cose terrene. Infatti Gesù disse: se vi ho parlato di cose terrene e non credete, come crederete se vi parlo di cose celesti? Gio versetto 3:12. Impariamo quindi a dare valore alle cose di questa vita. Osserviamo come Dio si cura delle cose di questo mondo e la fede in Dio aumenterà. 4. Luca 9:10-17. La moltiplicazione dei pani. Questo racconto è l'unico citato da tutti e quattro gli evangelisti. Molto probabilmente non sapremo mai il perché di questa particolarità, ma una cosa è certa. Dopo questo miracolo la gente voleva incoronare Gesù come il loro re. Gio versetto 6:15.

espressione questa capita alla luce degli avvenimenti descritti negli Evangeli. N, il giorno della sepoltura. Secondo Ollo, insegnamento religioso cattolico romano, Gesù morì il venerdì, ma questa affermazione contraddice clamorosamente mezzogiorno e 40. Ma dal momento che Gesù risuscitò all'alba del primo giorno della settimana, che per noi corrisponde alla domenica, se contiamo a ritroso 3 giorni, Gesù morì il mercoledì sera. Infatti al versetto 54 Luca afferma che Gesù morì prima del sabato, poi continua col dire che le donne in seguito prepararono gli aromi, poi di nuovo si riposarono il sabato secondo il comandamento, versetto. Da questo comprendiamo che la settimana in cui morì Gesù ebbe 2 sabati, cioè 2 giorni di riposo, Mat. 28, uno alla fine dei sabati, uno era il venerdì, l'altro era il sabbat, cioè il 7° giorno della settimana dove ogni israelita, secondo il comandamento di Dio, doveva riposare. 1. Per quale motivo Gesù, pur sapendo quale sarebbe stata la sua sorte, ha deciso di non sfuggire al 2? Qual è l'esempio pratico che Gesù vuole suggerire con il suo comportamento in tema di amare il 3? Quale profeta predisse l'impegno trionfante di Gesù in Gerusalemme? 4. Qual è l'atteggiamento di Gesù alla vista di Gerusalemme? 5. Chi sono i destinatari del messaggio profetico di Gesù raccontato al capitolo 21 di Luca? 6. Qual è lo scopo principale delle profezie di Cristo? 7. Descrivere per iscritto, in maniera sintetica, l'avvenimento della cena pasquale, facendone esaltare i principali atti e parole. 8. Per quale motivo Gesù ha desiderato ardentemente celebrare la Pasqua con i discepoli? 9. Per quale motivo Pietro viene perdonato dopo aver tradito per 3 volte il Signore? 10. In che modo Pietro si è dimostrato orgoglioso? 11. Perché Gesù ha pregato nel Getsemani? 12. Qual è stato l'oggetto della sua preghiera? 13. Qual è la reazione dei discepoli al momento dell'arresto di Gesù? 14. Ritieni normale il comportamento dei discepoli? 15. In che cosa ti trovi simile a loro? 16. L'episodio della crocifissione mette in risalto come la sofferenza patita da Gesù in quei tragici momenti non sia stata solo di carattere fisico. Descrivi le motivazioni di questa affermazione. 17. Perché Gesù ha chiesto al Padre di perdonare i suoi accusatori? 18. Descrivi con parole tue i fatti succedutisi al momento della crocifissione, cercando di non limitarti ad una mera elencazione, ma di renderli in forma narrativa anche se concisa. 19. Chi si presentò a Pilato per richiedere il corpo di Cristo per poterlo seppellire? 20. Quale profeta dell'Antico Testamento predisse il fatto sopracitato? Quale espressione usò per? Una volta stabilita la realtà di questo evento, diviene inutile la discussione degli altri miracoli dell'Evangelo. Inoltre il miracolo con il quale l'intera fede cristiana sta ritta o cade. Infatti, il cristianesimo è una religione storica che basa i suoi insegnamenti su determinati eventi avvenuti in Palestina 1900 anni fa. Di questi eventi ci sono la nascita ed il ministero di Gesù Cristo, culminato. La resurrezione è la pietra angolare perché se Cristo non è risorto, egli non era ciò che affermava di essere, e la sua non fu una morte espiatrice. Allora i cristiani sono stati ingannati per secoli. I predicatori hanno proclamato degli errori. I fedeli sono stati ingannati da una falsa speranza di salvezza. 1 Cor. 15. 1:20. A. Luca 24. 1:12. Spesso quando confrontiamo la narrazione dei 4 Evangeli, facciamo fatica a capire come si sono svolti effettivamente i fatti alla tomba di Gesù in modo cronologico. Ecco come, combinando le 4 narrazioni, molto probabilmente successero i fatti. A. Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e Salome, si avviano al sepolcro, seguite da alcune donne che portano le spezie. Mar 16:1. Esse trovano la pietra rotolata e Maria Maddalena torna indietro per dirlo ai discepoli. Luca mezzanotte meno 5 al mezzanotte 10. Gioversetto 20, 1-2. B. Maria, madre di Giacomo e Salome, si avvicinano alla tomba e vedono l'angelo. Mat 28, 1-8. Tornando indietro per dare la notizia ai discepoli, incontrano le altre donne con le spezie. C. Intanto Pietro e Giovanni, avvertiti da Maria Maddalena, arrivano al sepolcro, guardano nella tomba e tornano via. Gio versetto 21:10. Da Maria Maddalena ritorna al sepolcro piangendo, vede i due angeli e di seguito Gesù, poi, obbedendo a lui, va a dirlo ai suoi discepoli. Gio versetto 20:11-18. E, intanto Maria, madre di Giacomo e Salome, hanno incontrato le donne con le spezie e tornano indietro con loro e vedono i due angeli, Luca 24:4-5. Questi parlano alle donne ed esse, andando in cerca dei discepoli, incontrano Gesù, Matt 28:8-10. B. Luca 24:13-49. Le apparizioni di Gesù. Annunziare la morte di Gesù significa, come abbiamo detto, confessare il più grande miracolo della due. Il diavolo, cioè colui che aveva il potere sulla morte. Ecco perché tutti e quattro gli evangelisti si sono preoccupati di trasmetterci non solo la nascita, la vita e la resurrezione di Gesù, ma ci hanno trasmesso vari episodi dove Gesù era apparso vivo ai. Le apparizioni di Gesù sono state molte e anche in questo caso gli evangelisti non si sono. Ecco qui di seguito le apparizioni di Gesù nel seguente ordine. 1. Il giorno della resurrezione. 2. Alle donne che tornavano dal sepolcro. Matt 28:8-10. 3. A Pietro probabilmente nel pomeriggio. Luke 12:34-1:15. 5. 4. Ai discepoli in Emmaus verso sera. Luca 12:13. 5. Agli apostoli con assente Tommaso, Gio versetto 12:36, Gio versetto 20:19-24. 6. Dopo 8 giorni agli apostoli con presente Tommaso, Gio versetto 20:24-49. 7. Ai discepoli presso il lago di Tiberiade, Gio versetto capitolo 21. 8. Su un monte agli apostoli e 500 fratelli, 1 Cor 15:6. 9. A Giacomo, 1 Cor 15:7. 10. Agli undici, Matt 28:1-6, Mark 16:14, Luke 12:33, Atti 1:3. 11. A Paolo vicino a Damasco, Atti 9:3, 1 Cor 15:8. 12. A Paolo a Gerusalemme nel Tempio, Atti 22:17, 23:11. 13. A Stefano fuori di Gerusalemme, Atti 8:5. 14. A Giovanni in Patmos, Apre 1:10-19. 8. ILCRISTORISORTO. 1. Perché l'evento della resurrezione è così importante nell'ambito della fede cristiana? Cerca di due. Racconta con parole tue la successione dei fatti avvenuti dopo la sepoltura del corpo di Cristo. 3. Cita alcune delle apparizioni di Gesù avvenute dopo la sua morte, menzionando anche la fonte. 4. Perché gli autori dei quattro Evangeli si sono preoccupati di raccontarci questi episodi? Luca 24:50-53. Gesù, dopo aver terminato la sua opera e dopo aver detto ai suoi discepoli di aspettare la promessa del Padre, cioè lo Spirito Santo, si separò da loro e fu portato su nel cielo. Ora Gesù non è più sulla terra e dalla scrittura comprendiamo che egli ora A. E. seduto alla destra di Dio. E. B. 12:2. B. sta preparando una casa per i credenti, Gio versetto 14:2. C. intercede per i credenti, e B. 7:25-1, Gio versetto 2:2. D. E. Re dei re, e F. 1:20-21. F. E. adorato per l'eternità, Approsi 1:6. G. E. riconosciuto Signore alla gloria di Dio. Fil 2:5-11. H. E. onnipresente. Matt 28:20. Mentre era sulla terra, Cristo era limitato dalla sua natura umana e non poteva occuparsi di più cose nello stesso momento, né pertanto essere contemporaneamente a contatto con tutti i suoi discepoli. Ora invece, secondo la sua promessa, è con ognuno tutti i giorni. 1. Dove è in questo momento Gesù Cristo? 2. In quale modo egli continua ad essere con noi tutti i giorni? 3. In quale luogo della Scrittura troviamo l'affermazione secondo la quale Gesù intercede presso il Gesù Cristo ha promesso di ritornare? Per non fare confusione riguardo a questo soggetto, occorre tenere presente che Gesù parlava a degli ebrei, quindi egli si riferiva al suo ritorno come Messia per il popolo di Israele. Infatti la dottrina della seconda venuta di Cristo è stabilita da Zaccaria 14, 3 a 5, Malachia 3, 1, Giovanni 14, 2 a 3, Matteo 24, 36, 44, Atti 1.11, 2 Tessalonicesi 2, 1, 1, 2, 2, Pietro 3, 1 a 9, ILRAPIMNTO. Prima però di questo suo ritorno, Gesù ha rivelato che coloro che credono in Lui saranno rapiti in cielo per essere risparmiati dai giudizi di Dio che precederanno la seconda venuta. 1 Te 4 e 16 e 1 Co 15 e 52. C. Quando Gesù tornerà per Israele, verrà sulla terra per regnare con i credenti e tutti lo vedranno. Za 14, 5, AP 1, 7, AP 24, 2 T 2 e 12. Il rapimento è quindi per il cristiano l'avvenimento che egli deve attendere e non la sua morte o la conversione del mondo. Il fatto del rapimento riguarda non solo i viventi, ma pure coloro che si sono addormentati in Cristo, cioè coloro che sono morti con la fede in Gesù, perché questo evento completerà la loro salvezza come la nostra. Infatti sia coloro che sono morti sia coloro che sono vivi al momento del ritorno di Cristo aspettano di avere un corpo nuovo, glorioso, incorruttibile. Il Signore ti invita a diventare un suo figlio perché per natura sei figlio del diavolo. 1 Gio versetto 1 e 10. Se sei un figlio di Dio, quando Gesù rapirà la Chiesa, farai parte di essa, ma se non lo sei, rimarrai su questa terra in attesa dei giudizi che Dio manderà su tutto il mondo. La mia preghiera è che tu consacri la vita a Gesù e il tuo futuro sarà quello di stare sempre con colui che ti ama per l'eternità. Gio versetto 10, 28, 29. 1, 0. ILRITORNODICRISTO 1. Perché si può parlare del ritorno del Signore? Quali sono le motivazioni che inducono a sostenere? 2. Quali profeti dell'Antico Testamento parlano della seconda venuta di Cristo? 4. La Scrittura indica quando avverrà il rapimento? 5. Qual è il tuo atteggiamento di fronte al rapimento della Chiesa?